Sono migrante latinoamericano, sono arrivato con lo zaino nella mano. Mi hanno parlato di stare attento, perché il fascismo vive ancora nella mente de chi è razzista o suprematista, de chi vede il mondo da un altro punto di vista. Però il mio cuore diventa felice di stare con voi in questa lotta che dice così.